cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra! Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata delle Porte di Tannhäuser. Attenzione, anche questo lunedì sera insieme a parlare di fantascienza ci potete sentire appunto sulle frequenze 13.59 delle onde medie. Potete iscriverci a postawombat@insiberia.net appunto Radio Wombat Firenze, no, radiowombat.net, appunto il nostro sito principale. Magari ci state ascoltando da lì oppure dalla radio, chissà. Potete farlo appunto in svariati modi. Buona serata, un saluto al buon Tuco e anche da Bloody Mary, che in questo momento non sentite ma sentirete fra pochissimo. Come sapete, spero che sappiate appunto, si è appena finito il Festival di Letteratura Sociale Claridade al CSA Next Emerson, che è stato questo fine settimana, venerdì, sabato, domenica. E quindi oggi abbiamo pensato, invece di fare la solita puntata in cui ragioniamo di qualcosa, qualche tema della fantascienza e di come è trattato appunto nella letteratura, ma non solo, chiaramente noi ci spaziamo a 360 gradi, il festival invece però è stato dedicato principalmente alla letteratura sociale, quindi di case editrici indipendenti, autoproduzioni o anche produzioni di case editrici magari un po' più grandi, ma con tematiche molto molto molto molto interessanti, particolarmente interessanti. E chiaramente si è parlato anche di fantascienza e proprio la nostra Bloody Mary ha partecipato appunto tenendo, insomma, facendo un po' da relatrice, da mediatrice alla presentazione di Ombre dal futuro, viaggio nella letteratura distopica, Malamente Edizioni 2022, e c'era chiaramente l'autore Marco Sommariva. Il libro è veramente veramente molto interessante, e Ombre dal futuro analizza 350 anni di letteratura distopica, quindi ne abbiamo parlato a lungo. È un viaggio fra titoli troppo spesso dimenticati e grandi classici di questo genere attraverso una scrittura che produce il futuro elaborando l'esperienza. Quindi, per capirci, si va dai viaggi di Gulliver di Swift al tallone di ferro di Jack London, da noi di Evgeny Ivanovich Zamyatin al mondo nuovo di Huxley, ne abbiamo parlato, Orwell, Fahrenheit 451, Arancia Meccanica e tanto altro, perché si va a trattare di ben più di 80 titoli all'interno del libro, partendo addirittura dal 1676 per arrivare ai giorni nostri. Apre, diciamo, dopo la prefazione, che potete trovare tra l'altro sul sito della casa editrice gratuitamente, lo potete scaricare, la prefazione fatta da Domenico Gallo. Si parte dal primo capitolo con La terra australe di Gabriel de Foigny, penso si dica Foigny, del 1676, e si chiude con Melma Rosa di Fernanda Trias, 2022. Quindi tanti tanti tanti racconti, tra classiconi appunto ve ne ho citati diversi, a cose invece meno conosciute, tipo appunto la letteratura russa per esempio, ma non solo, letteratura un po' meno conosciuta, ecco, meno mainstream, anche se tendenzialmente la fantascienza mainstream nella letteratura è bella. No, non è vero, non è tutta bella, perché c'è una grande produzione, però ci sono tante cose veramente interessanti, e per questo a noi ci piace approfondire. Quindi, in questa puntata, vi lascerei a questo punto appunto alla presentazione integrale del libro con Bloody Mary. Non è una presentazione solo sul libro, non si parla solo di quello, anzi forse rimane anche da un certo punto di vista più marginale, perché si parla in generale di fantascienza, di distopie, della filosofia che c'è dietro, quindi molto interessante, molto affine a noi.